pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi me la prenderò in maniera sanguinosa con le maestrine dalla penna rossa. Sono coloro che immaginano che ogni parola pronunciata alla radio sia scritta su un copione, ci sia stato tempo per leggerla, impararla a memoria, collazionarla con le auree regole della lingua italiana. Ma in realtà chi si siede davanti a un microfono molto spesso parla, segue i propri pensieri, improvvisa, dà corpo a delle immagini che in quel momento soltanto allucina e quindi non ha naturalmente modo per capire, per sapere, per profondere il proprio eloquio in maniera corretta. Ma poi esiste una maniera corretta di parlare. Esiste una regola tetragona, inattaccabile, indissolubile della lingua italiana. Chi sono i moralizzatori della lingua italiana? Coloro che ti chiamano e dicono: ah, il congiuntivo, si ricordi il congiuntivo? Oppure ti dicono: non si dice così, oppure l'accento è così, questa cosa l'ha pronunciata male. Sì, lo dico con una punta di rosicamento, lo dico verità, perché molte volte uno fa salti mortali, si arrampica sugli specchi a cercare il filo di pensieri che sembra avere soltanto lui nella zona liminare della sua capacità di percepire, e vorrebbe trasferirli, vorrebbe comunicare, vorrebbe contaminarsi con il pensiero altrui, e ti bleccano magari sull'accento sbagliato, sul congiuntivo. Ecco, quanto è reale il fatto che esista una lingua italiana che è scritta in lettere di fuoco su delle tavole della legge su cui nessuno può mai più intervenire? E quanto è vero che in realtà oggi nessuno più parli l'italiano, non si insegna più l'italiano, le persone sono ignoranti, il computer ha totalmente tolto la capacità di scrivere, nessuno sa più scrivere. Una volta con le nostre belle penne scrivevamo delle bellissime lettere, oggi avete questo linguaggio stereotipato degli sms, ma viva Dio, per fortuna i ragazzi si mandano sms, hanno riscoperto una maniera profonda per comunicare. Beh, 800 24 00 24, so che siete in ascolto, so che siete lì con la grammatica della lingua italiana in mano e con gli appunti della vostra maestra di terza elementare accanto, per sottolineare e per sparare a palle incatenate contro ogni mia parola sbagliata. Ma fatelo in generale, fatelo contro il mondo, fatelo contro tutti coloro che vi fanno tanto soffrire. Smettete di strapparvi le vesti e di pensare che sia mai esistito un periodo felice in cui la lingua italiana fluiva, incontaminata, meravigliosa, come l'aveva immaginata Dante, come l'aveva risciacquata Manzoni, e come i grandi della lingua italiana l'avevano immaginata. Beh, immaginate che in questo momento possiate riscattare ogni oltraggio a lingua che facciamo noi miseri conduttori radiofonici. Ehi, Nicoletti, ciao, posso chiedere una cosa? Ma perché scienza va con la I, coscienza va con la I e conoscenza va senza I? Non ho mai capito come si infilano ste I nelle parole. Salve Nicoletti, ti faccio un piacere, da due giorni che dici i carceri, il plurale di carcere è le carceri, assolutamente femminile, le carceri, sono due giorni e nessuno te lo dice, basta. Nicoletti, soffocazione, soffocazione. Questa è soltanto una piccola scrematura di tutti i messaggi che arrivano ogni giorno, per non parlare delle email, per non parlare delle lettere al direttore, per non parlare delle pubbliche esecrazioni del linguaggio imperfetto. 800 24 00 24, puristi della lingua, questa mattina è la vostra mattinata. Volevo indurre a prendere in esame il linguaggio che usano i politici. Secondo me è un linguaggio unificante e a me preoccupa. Le parole standard sono e quant'altro. Detto questo, in passato c'era nella misura in cui. Ho sentito che il ministro Brunetta ha lasciato un messaggio su Facebook dicendo: cari amici, spero che siete in tanti. Il ministro o qualcuno insegna al ministro che si dice: cari amici, spero che siate in tanti. Il signor ministro non conosce la grammatica, è grave, eh? siamo abituati che in realtà esistano due forme differenti di lingua, una lingua scritta, una lingua che deve rispondere comunque a delle regole formali che sono abbastanza note ai più, e una lingua parlata che facilmente può cedere all'espressione dialettale, anzi molte volte è considerata un elemento di snobistica distinzione. Guardate quanto parlano romanesco, quanto parlano napoletano, quanto parlano lombardo stretto alcuni noti personaggi, perché fa parte comunque di una distinzione d'appartenenza. Sono così su con il mio punto di vista che posso permettermi di forzare il parlare del popolo nel mio eloquio, che altrimenti sarebbe forbito, sarebbe di altissimo livello, oppure i miei pensieri sono a un livello talmente sublime che posso permettermi di esprimerli in maniera apparentemente volgare. 800240024, maestrina della penna rossa, questa mattina vi prego, fatevi sentire, non mandate più i vostri messaggi minatori, le vostre lettere nascoste, non scrivetemi con la vernice rossa sotto casa, hai sbagliato il congiuntivo. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia a tutte le telespettatrici e buon inizio e fine, buon inizio di settimana ai telespettatori, ma perché mi fai ridere? Questa è una dimostrazione di quante energie e quanto lavoro tutti abbiano messo sopra, come dire, governa il paese, non abbi questo amore verso il prodotto, vogliono fare ciò, lo facciano pure. Allora io quello che credo è che lui abbia fatto, come dire, abbia fatto tantissimo in tutta la sua carriera, abbia fatto tantissimo per la Ferrari. Allora ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Il confronto fra alcune palesi mancanze di sintonia con la lingua ufficiale o lingua scritta, Luca Giurato che ne ha fatto cifra della sua vis comica, Lapo Elkan che è diventato proprio per questo un personaggio, infatti la sottolineatura con le risatine presa da Striscia la Notizia, non so a quale programma satirico televisivo, comunque dà evidenza. E poi alla fine Fantozzi, il fantozzese, l'impiegatese, i congiuntivi degli impiegati che vorrebbero mostrare una sorta di padronanza del linguaggio secondo un'estetica ragionieristica, di un linguaggio forbito ma che in realtà diventa il linguaggio stereotipato, delle circolari aziendali, delle piccole missive da protocollare. Beh, tutto questo presenta e mostra una palese fantasia nell'interpretare il linguaggio. La stessa fantasia creatrice che portava alcuni poeti, alcuni grandi fabbri di versi a inventarsi le parole. D'Annunzio si inventava le parole, aveva un suo linguaggio. Esisteva comunque, esiste tutta una corrente della letteratura, della poesia, della fabulazione che fa sì che il linguaggio sia una materia duttile, una sorta di magmatica maniera per esprimersi, attraverso cui uno può plasmare secondo le sue inclinazioni, la sua storia, la sua equazione individuale, le sue frequentazioni, la sua fantasia, le sue follie, la sua estasi, la sua ubriachezza molesta, il linguaggio, purché sia comunicativo. Ma possibile mai che questa gente non riesca a usare un termine italiano dall'inizio alla fine della frase, deve sempre infilare dentro il lifestyle, il brand, il merchandising? Abbiamo delle bellissime parole, ma questi manager e questa gente parla sempre soltanto piccando dentro parole inglesi. Senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi. Ma che dice? No, forse ho toccato un argomento che non... No. L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione. Matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla? Rapporto in crisi, però è così kitsch. Kitsch. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi? Ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Ma come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla? Chi parla male pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti. Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa. Trend negativo. trend negativo. Non parlo così, non penso così. Trend negativo. Questa era Palombella Rossa, la famosa scena in cui Nanni Moretti poi schiaffeggia la giornalista, ma anche questo in fondo è un triplo salto mortale di un maestrinismo dalla penna rossa che vorrebbe irridere gli influssi nel linguaggio italiano della lingua inglese. A me sono abbastanza odiosi anche perché trovo grosse difficoltà nel pronunciare esattamente, però mi rendo conto che sono delle semplificazioni necessarie, inutile girarci attorno. Si fa molto prima a dire trend che dire tutta una serie di parole che non mai sintetizzeranno quello che ormai nell'uso comune è questo, significa questo, quindi perché fermarsi le apparenze? Vedo già alcune vittime del maestrinismo dalla penna rossa. Anna Maria dice: un signore milanese molto chic, padre di una mia alunna, sosteneva che non si possa dire andare in parco di pertinenza della scuola, ma solo al parco. Gli ho mandato una pagina di grammatica con tutte le preposizioni che reggono il complemento di moto a luogo. Velatamente voleva farmi notare che si tratta di un errore di noi meridionali. Poi avanti ancora, interessante, sempre Anna Maria dice: come la vedo io, con la lingua si può giocare e divertirsi anche. Su questo non ho nessun dubbio. Le regole italiane possono essere benissimo trasgredite, purché ci sia la consapevolezza di farle, non la pretesa di essere comunque nel giusto. Sentiamo Francesca da Roma. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Lei è una maestrina alla penna rossa? O una vittima? No, la penna rossa. Io ho solo alcuni computer. Senta, dunque il mio problema è questo, secondo me la lingua deve evolvere, deve evolvere in senso moderno, non deve essere morettiniana, però bisogna capire di cosa si parla. Allora, io trovo molto sgarbato l'uso moderno che si fa del termine piuttosto. Di cosa si stia parlando? Sì. No, ho fatto la maestrina alla penna rossa io, per vedere quanto dà fastidio essere ripresi. No, vabbè. E dunque, piuttosto significa invece di, in italiano, cioè io dico vado a Milano piuttosto che a Venezia, significa che vado a Milano e non a Venezia. Oggi si usa vado a Milano piuttosto che a Venezia, piuttosto che a Verona, così uno non sa dove uno va. E questo in qualche caso può essere veramente, può confondere le idee. Vado a Milano, come vado a Verona, vado a Napoli. Oppure, nel senso di oppure. Allora, piuttosto non significa oppure, piuttosto significa invece di, faccio questa cosa invece che un'altra. Sì, ha ragione, guardi, no? Dedicherò la mia meditazione zen quotidiana a riflettere su questo problema. No, ha colto un punto fondamentale. Cioè, bisogna capire cosa si parla. Esattamente. Brava, sì, Francesca. Vabbè. Mauro da Napoli. Buongiorno. Dunque io sono un patito della lingua italiana, ma non quindi maestra della penna rossa? No, non sono maestro, sono un professionista. Accetti di appartenere a una categoria, facciamo per gioco, mica è... Sì, mica va bene, accetto la categoria, dico... Sono una maestrina alla penna rossa? Infinite, però fra i tanti argomenti ne scelgo tre soltanto. Prima di tutto, la radio e la televisione ha una responsabilità verso tutti i cittadini. È da lì che i ragazzi e gli sprovveduti imparano. Ecco, anzitutto le lingue straniere, ma ci vuole tanto informarsi sulla corretta pronuncia dei nomi americani. Non si dice Illinois, si dice Illinois, per esempio. Basta fare una telefonatina a un amico americano inglese. Certo, che costa. Ecco, e tutti questi... Vabbè, questo sarebbe il meno. Poi, di cosa veramente la fa soffrire del vilipendio quotidiano sulla lingua italiana? Ecco, bravo. Allora, per esempio, una cosa importantissima, e mi meraviglio che le femministe non si ribellino, ma perché chiamare presidente donna il presidente? Ma perché chiamare il direttore, il procuratore? C'è una regola fissa nella lingua italiana che è una facile traduzione al femminile. Il direttore, la direttrice... Il procuratore, anche la direttora si può dire. Io faccio, non ci crederà, io faccio uno spulcio giornaliero dei primi quotidiani che compro, che leggo, e noto per esempio che il Corriere, mentre il Corriere del Mezzogiorno, che è annesso al Corriere della Sera, usa correttamente il femminile, la sindaca, si abbia il coraggio, la sindaca, il Corriere della Sera, il sindaco è bella, il sindaco aveva... Ora, la sindaca allora è meglio, la sindachessa userei sinceramente. No, sindachessa è la moglie del sindaco, la sindachessa era... Ah, la... E deve continuare a essere la moglie del sindaco. E la sindaca, siccome, come la chiamiamo? Siccome il sindaco donna è una cosa recente. Scusi, ma il marito della sindaca, come lo chiamiamo? Il sindachesso? No, non ha nessun... C'era un nome. Se la moglie del sindaco è la sindachessa, corretto, lo dice lei che studia. Sì. Il marito della donna sindaco, cos'è? Il sindachesso? Questo le domando. Nessun appellativo, perché... Non ha dignità di esistenza. È tristissima questa condizione. Come vede, ci sono delle lacune... incolmabile la nostra lingua. Ma sentiamo chi questo problema ha studiato. Fermiamoci un secondo soltanto, perché sono tantissime telefonate e non me lo immaginavo. Certo. Andrea De Benedetti, buongiorno. Buongiorno. A questo punto mi serve una spalla potente per fare giustizia su quanti in maniera indebita oltraggino quotidianamente la lingua italiana. Tu hai scritto, sei un linguista, giornalista, val più la pratica, piccola grammatica immorale della lingua italiana, edizioni La Terza, in cui fai giustizia e tendi allo sterminio di tutti coloro che tu chiami non tanto maestrini della penna rossa, ma neocruschisti o qualcosa del genere. Sì, li chiamo neocrusch per analogia con neocon, teodem e via dicendo, insomma, cioè queste specie sono mutanti. Estremisti secondo te? Sono degli estremisti, sì, sono degli estremisti, sono dei moralisti, come dire, moralisti non così dannosi come in altri campi, ma insomma sono moralisti che osservano la lingua sempre con un atteggiamento giudice e non con un atteggiamento al limite vigile. Io ho l'impressione che appunto, siccome tutti quanti, bene o male, usiamo la lingua quotidianamente, tutti quanti ci sentiamo autorizzati a emettere dei giudizi in proposito, allo stesso modo di come tutti gli italiani sono commissari tecnici che si sentono autorizzati a dire la loro su chi deve essere convocato in nazionale, ci sentiamo autorizzati a dire la nostra sulle regole linguistiche, senza essere poi sempre così informati sulla questione. Ecco, nel tuo libro, e tra un istante dopo l'informazione dalla borsa che sto per lanciare, tu sconfessi alcuni dei luoghi comuni più importanti delle maestrine della penna rossa o dei neocrusch, come li chiami te, e fra un istante, appunto dopo l'informazione dalla borsa, cercheremo di enunciare la nostra teoria sul fatto che in realtà la lingua italiana non ha mai vissuto un periodo di salute come in questo momento. Melog 2.0. Farci vedere contentissima in tutte queste puntate? Contentissima. O c'è qualcosa che ancora vorresti che noi scoprimmo? Chiede però una reazione forte contro i separatisti curdi del PKK. Prima vorrei fare un'osservazione. Vada. Siamo in conclusura, ma vada. Sempre più frequente e diffusa è il ricorso a prestiti bancari, persino per sbarcare il lumario. 800 24 00 24, ce l'abbiamo questa mattina con le maestrine della penna rossa, beh sì, un po' anche per piccolo livore personale, un po' anche perché ora di smetterla con queste gabbie indissolubili e invalicabili della lingua italiana, ancora articolate sul grammaticare delle maestre del dopoguerra nelle scuole rurali italiane. Forse è il caso di capire che la lingua si evolve e fluisce, si contamina. Pensate cosa sarà la lingua italiana fra 10 anni. Ho i figli a scuola, nelle classi elementari, in cui sono più bambini stranieri che bambini italiani. È meraviglioso, parlano un perfetto italiano, ma allo stesso tempo insegnano ai nostri figli anche parole diverse, parole che sono un mixaggio, vedi anche questa parola qui, fa rabbrividire le maestrine della penna rossa. Dico mixaggio linguistico, perché? Perché sono 30 anni che faccio radio, quindi per me mixare significa prendere due elementi, metterli insieme e farne venire un terzo meraviglioso. È la stessa operazione che faccio spesso la sera mettendo insieme lime, cointreau e tequila. Però questo probabilmente non interessa a Francesco dalla provincia di Foggia. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Lei è una maestrina alla penna rossa, lo dica subito. Assolutamente no, anche perché peccato. Io sono convinto che la lingua italiana sia molto difficile, quindi che qualcuno sbagli il congiuntivo sta nelle cose. La cosa che più mi indigna invece è proprio l'uso strumentale della lingua italiana. Adesso in questi giorni, per via della politica, sentiamo sempre la parola, ad esempio, una parola che non usiamo più è quella di disoccupata, disoccupati, che è stata sostituita dalla parola mobilità. E questo secondo me è un uso strumentale della lingua che serve ad alterare la realtà. Quindi la gente in mobilità, non so che cosa significhi, però la parola disoccupata certo è molto più negativo. Questo ritengo che sia una... queste sono, le edulcorazioni che si fanno via via la lingua. Il politicamente corretto è una necessità che negli ultimi decenni ha fortemente cambiato le nostre espressioni più crude nei confronti delle categorie disagiate, come appunto il disoccupato, chiamiamolo risorsa umana e mobilità, che probabilmente si sente meno disgraziato, meno penalizzato. Forse sì, però dico, il politicamente corretto dovrebbe essere sempre più vicino alla realtà, non alterarla. In maniera tale che comunque se questo possa lavorare sulla responsabilità, quindi un cittadino possa essere pienamente consapevole di dove sta andando e qual è il futuro che l'aspetta. Quando invece la politica... Ma è una sorta di vasellina lessicale del disagio, capisce? Parlare di diversamente abile si immagina che faccia meno male a chi ha un problema di qualsiasi tipo, di disagio fisico. Questo però forse non rientra tanto nel novero e nel terreno di azione delle maestrine della penna rossa, ma rientra nel seguire una sorta di flusso, di moda linguistica, di appartenenza a una classe di esseri umani che non vuol far male con le parole, ma può tranquillamente massacrare con le azioni. Michele, provincia di Bergamo, buongiorno. Michele? Si è autosegato da solo, però è anche giusto, perché così mi evitava di farlo a me, una maestrina a penna rossa. Allora, Andrea De Benedetti, riprendiamolo, va al più la pratica, piccola grammatica immorale della lingua italiana, editori La Terza. Vogliamo velocemente toccare i punti, i cavalli di battaglia delle maestrine alla penna rossa o neocrusco, come li chiami te, e smontarli se possibile. È vero che sta scomparendo il congiuntivo? Sì e no, diciamo che rispetto a 50 anni fa... Anzi, scusami, è corretto che stia scomparendo il congiuntivo? È normale, è fisiologico, è come dire, è come l'invecchiamento delle persone, è una cosa che, come dire, a chi lo prova e a chi lo osserva può fare effetto, ma è di per sé è un fenomeno naturale. Il francese ci ha anticipati di qualche secolo nella scomparsa del congiuntivo, che ormai si può dare per completata, e non per questo il francese è una lingua che si è imbastardita, si è imbarbarita, è una lingua che riesce a regalare ancora grandi scrittori e anche grandi oratori, quindi, come dire, tutto quello che il congiuntivo esprime loro sono riusciti poi a delegarlo ad altre forme linguistiche che ne fanno le veci. Quindi, guarda, mi capita per mia passione personale di sfogliare a volte vecchie riviste, le colleziono. Basta prendere una rivista, ma nemmeno di tanti anni fa, semplicemente degli anni 40, già si trovano delle parole che oggi sono perfettamente scomparse. Se le pronunciassi nessuno saprebbe nemmeno da dove io possa averle mai pensate, immaginate. Ma non credo che per questo qualcuno si sia immolato sull'altare del recupero delle parole scomparse della lingua italiana. Forse vale anche un po' per i verbi, forse. Sì, vale anche un po' per i verbi, oltretutto, come dire, ci sono, se vogliamo, delle cause che, come dire, godono di una popolarità maggiore di altre. Il congiuntivo, di congiuntivo si parla tanto di scomparsa del congiuntivo, si parla molto meno invece della scomparsa di altri tempi verbali, che pure insomma hanno avuto una loro storia, una loro tradizione, una loro dignità. Che ne so, il trapassato remoto mi viene in mente. Ecco, il trapassato remoto non lo usa più nessuno, si usa soltanto in determinati contesti della lingua scritta, nessuno però si straccia le vesti per scomparsa del trapassato. Beh, anche l'auristo in effetti se ne sente parlare sempre meno, devo dire. Come, scusa? Dell'auristo, che è un tempo greco, se ne sente parlare sempre di meno. Ah sì, l'auristo è effettivamente, come dire, un po' caduto. Senti, altra cosa, la gente non sa più parlare l'italiano, altra frase che sento dire negli autobus a ogni piè sospinto. la gente sa parlare sempre di più l'italiano, invece anche lì basta raffrontare la situazione attuale a quella di 50 anni fa, quando eravamo un popolo che usciva da una situazione intanto di mancanza di unione dal punto di vista nazionale. C'erano ancora i piemontesi, i lombardi, i campani, eccetera. Ognuno parlava il suo dialetto, l'italiano era prerogativa di pochi, delle classi, tendenzialmente delle classi colte. Adesso lo parliamo bene o male tutti, l'italiano, e la lingua è diventata una lingua nazionale, quindi l'italiano è più sano e più vivace oggi, indubbiamente, di quanto non lo fosse 50 anni fa. Poi ci si può mettere a sindacare sul fatto che si potrebbe parlare un pochino meglio l'italiano. Io sono d'accordo con quello che diceva il signore che è intervenuto poco fa rispetto a questo uso smodato e ipocrita degli eufemismi. Quando si parla appunto di mobilità anziché di disoccupazione, io trovo che sia una manifestazione di ipocrisia abbastanza sconcia, così come quando si parlava di peacekeeping per l'intervento degli Stati Uniti in Afghanistan, quando si trattava a tutti gli effetti di un'operazione bellica, ecco. Vabbè, questo l'ho detto, fa parte del vasellinismo lessicale che viene usato a piene mani. Certo, quando che dovrebbero indignare più cose di questo tipo rispetto... Si vuol far meno male, chiaro. Sì, allora, Michele dalla provincia di Bergamo. Michele. Pronto, buongiorno a tutti. Maestrina o non maestrina? No, beh, maestrina è diciamo molto soft, man. Vedi già il fatto di aver usato il soft mi dovrei pestare io sui denti, dovrei pestare. No, di quello che volevo significare era solo una cosa. La lingua serve per esprimersi, quindi ben vengano anche le modificazioni, nel senso che se ci sono, vengono coniate nuove parole, perché i tempi corrono, quindi non è che la lingua può star ferma, bisogna correre dietro, ma sicuramente. Io quello che è la mia indignazione non è tanto nelle novità letterarie, nella parola nuova, eccetera, ma è proprio nel modo di esprimersi che c'è la decadenza. Allora a questo punto, se tutto va bene, se io posso scrivere ho fatto senza l'H, no? Se va bene anche questo, va bene che in un discorso io mi ci metta anche a ruttare. No, giusto. Beh, adesso stai sterilizzando. È un modo di esprimersi, no? Per tirare acqua al suo mulino. Non c'entra nulla. Quello mi sta sulle spalle, sulle palle, scusami, e io rutto. No? Vabbè, scusa. Vabbè, lei sta usando lo strumento della provocazione per portare probabilmente forza alla sua tesi, ma facendo così scivola verso il basso. Il maestrinismo dalla penna rossa. Non trascende mai questa espressione. Ruttare non significa parlare, esprimersi, fare dei rumori. Gianluca, ci arriveremo e ci arriveremo. Dire, adesso non ci preoccupiamo di quello che fanno gli altri. Io sto ponendo il problema dell'elasticità linguistica, del piacere, del divertimento. Gianluca, su questo finalmente, l'ho detto prima, l'evoluzione deve essere sempre un'evoluzione positiva. L'arricchimento di una parola nuova ci dà la possibilità di spaziare, no? Quindi devo andare sempre a ricercare quella vecchia parola che non si usa più e tirarla in bala, perché poi non è neanche più nei tempi, non esprime neanche più il movimento della persona stessa. Però la lingua serve per elevare, non per buttare giù, quello che voglio dire. Ah, può servire a tante cose, guardi, non, in questo non mi pongo limiti, può essere anche strumento di abiezione, non è quello il problema. Comunque grazie, finalmente una vera confessa e dichiarata maestrina della penna rossa, Maria Rosaria da Genova. Buongiorno. Buongiorno. Lei è veramente maestrina. Sono una maestrina della penna rossa. Finalmente, una che ha il coraggio di ammettere. Sì. Sono stata anche parecchio insolentita da un vostro giornalista con due email piene di insulti, perché era rimasto molto piccato dal fatto che io tramite un'altra email avessi ripreso per un errore veramente madornale. Comunque ho telefonato soprattutto... Beh, insolentita, avrà risposto in maniera vivace. Sì, prego, prego. Ho telefonato per rispondere al primo quesito che ho sentito quando avete trasmesso le telefonate registrate. Perché si scrive scienza e coscienza con la I e perché conoscenza è senza I? Se crede, mi produrrò in questa lezioncina proprio da maestrina. Se lo riesce, aspetti, allora guardi. Le darò questo sommo privilegio, per me sarà veramente un momento di catarsi. Me lo beccherò volentieri e sarà la giusta espiazione per aver oltraggiato le maestrine della penna rossa. Però mi permette di mandare prima le informazioni dal traffico, così intanto si prepara e poi farà la lezione. Le darò un minuto, non di più, poi la seguo. 800240024, siamo per dare un minuto di gloria alla prima vera confessa e dichiarata maestrina della penna rossa, che è Maria Rosaria da Genova, che ci fa una piccola lezione. Sì, scienza e coscienza derivano dal verbo latino scio, infinito scire, quarta coniugazione latina, i vocale tematica. Le vocali tematiche sono molto importanti e si conservano gelosamente, perciò bisogna scrivere scienza e coscienza. Mannaggia, è partita proprio inaspettatamente, era tanto tempo che giaceva silenziosa e non so come, non so perché, non so per quale ragione, è partita da sola la motosega. Mi dispiace per Maria Rosa e per le sue tenere ginocchia calzate da calze da maestra della penna rossa, e devo dire che era molto interessante però la sua lezione. Gesualdo da Torino. Gesualdo? Pronto? È un maestrino della penna rossa? Assolutamente no, Nicoletti. Innanzitutto e adesso perché ha sentito la motosega si è spaventato. No, ma neanche un po', io faccio tutto un altro mestiere. No, però mia mamma era una maestrina, non credo che sia mai stata dalla penna rossa. Innanzitutto la ricordo, io pensi, dai primi tempi di Maurizio Costanzo, ero giovane e la immaginavo che lei passasse il suo tempo davanti al televisore. Che sa che a quel tempo parlava di televisione. Ah, sempre. Parla di me, sta parlando. Ah, parlo sì. Di lei, sì. Sì, sì, è vero, sì, ma, sì, passavo ore e ore davanti al televisore, esatto. È vero, l'ho fatto per esatto. Una quindicina d'anni, è vero proprio. Esatto. Comunque, il mio intervento è in questo senso. Io ieri ho sentito Monicelli e mi è piaciuto molto A che tempo che fa, no? E parlava appunto di una nostra schiavitù delle vestigia passate, della Roma antica e di tutti questi orpelli che ci portiamo dietro quando vogliamo far vedere che noi siamo superiori, no? E questo c'è un po' una linea comune in quello che lei stava dicendo, cioè... Secondo me oggi per interpretare e vivere il momento in cui siamo è la fluidità, no? È la disponibilità mentale. Cioè, a meno di non fare delle sgrammaticature, perché insomma io non credo che lei voglia annullare quelle che sono le regole basi della grammatica, no? No. E poi insomma c'è questa cosa, grossa diatriba tra direttore, direttrice, eccetera. Anche fra diatriba e diatriba, molti si dividono e si dissanguano. Non ne usciamo più, a via di quello degli accenti che hanno stravolto in tutte le cose. Ma appunto, cioè, secondo lei, linguaggio comune, cioè, c'è un modo oppure chi se ne frega? Io sarei per dire chi se ne frega, però sentiamo cosa appunto dice Andrea De Benedetti, che molto più di me ha studiato il problema. Ma sì, io da questo punto di vista, quando si parla di sgrammaticature, tanto per cominciare bisogna capirsi su cosa si intende per sgrammaticature, perché la tradizione scolastica ci ha, come dire, regalato una serie di regole grammaticali che in realtà non sono tali, che sono state inventate di sana pianta. Penso alla famosa dieufonica che ci hanno insegnato a mettere dalla prima elementare con la preposizione a o con la congiunzione e di fronte ad altre parole che cominciano con vocale, che è stata trasformata in regola ortografica quando, come dice la parola stessa, eufonica, in realtà dovrebbe servire per regalare una pronuncia migliore a quello che noi diciamo. Altre regole assurde che non hanno più nessuna ragione di esistere, il lei, o meglio, egli, ella, usati come soggetto. Anche egli non esisteva nella lingua italiana una volta. Certo. Ormai non li usa più nessuno, ma non li usa più nessuno perché sono molto meno duttili rispetto a lei e lui. Lei e lui si possono mettere per esempio dopo il verbo, egli non si può mettere, non si può dire è stato egli, si dice è stato lui, è stata lei, non si può dire è stato egli, è stata ella. Così come l'uso del gli, sempre a proposito di pronomi, come pronome per la terza persona del plurale dativo, per usare un latinismo, quindi gli ho dato anziché ho dato loro. Ecco, loro, che pure viene considerato come un pronome elegantissimo e che alcuni esibiscono come un collier di diamanti nelle conversazioni, in realtà è molto meno versatile rispetto agli... Soprattutto guardi, quando si scrive un pezzo... Quando si scrive un pezzo per un giornale impiccia molto quel loro, perché c'è sempre un loro prima o dopo con cui fa pugni, quindi si comincia a usare sempre meno anche nel linguaggio giornalistico scritto, certo, devo dire. Ma no, il bello poi di tutte queste regole che venivano imposte è che la tradizione letteraria italiana fin dalle origini, fin dagli albori, le consentiva. È stato poi un tardo purismo di matrice seicentesca, settecentesca, quello che ha cercato poi di espungere dalla grammatica italiana delle forme che nel parlato, ma anche nello scritto, fino ad allora si erano sempre usate. Ecco, sento qualche altra maestrina desiderosa di assaggiare i denti aguzzi della motosega. Rosaria, dalla provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno, allora, brevemente, i toscani, anche le persone colte che spesso sembra la televisione, quando coniugano la terza coniugazione al presente indicativo, dire, per dire io, noi e si dicono, usano dicano, dormire, dormano anziché dormono. Ecco, questo vorrei sapere, perché i toscani hanno preso questa pessima abitudine di parlare così. Guardi, lei è dalla provincia di Perugia. Coniugano la terza persona dell'indicativo plurale, quindi, sì, usando la terminazione ano. Ma cosa dovrei dirle io? Io non faccio, non rispondo, io semplicemente, lei deve esprimere la sua indignazione e io segarla, perché non ho risposte, lo fanno perché gli piace farlo, non so le radici, quali ancestri linguistici siano dietro. Senta, io sono sarda e quando parliamo in italiano in Sardegna parliamo molto corretto. Sì, lo so, lo c'ho anche a scuola, i sardi, il sardo è una lingua, i sardi quando parlano italiano perfetto, è un altro dei... Ecco, insomma, è perché i toscani, e poi lo dicono anche persone colte, io lo sento alla televisione, mi dà un gran fastidio. E questo le fa soffrire. Essi dormano. Anziché io non ho mai dormono. Sentito, però se lei, non motivo di dubitare, essi dormano. Anziché dormono, essi dicano. Ma con tipo nessun dorma, una cosa del genere? Forse in questo senso? No, non usano, certo, non lo uso come congiuntivo, perché in quel momento non ha bisogno dell'espressione che usa. Vabbè, abbiamo capito che questo è un motivo per lei di profonda sofferenza, abbiamo tutta la nostra comprensione. Alfredo da Como, l'italiano si sta imbarbarendo. Sta imbarbarendo in quanto... Quindi lei è maestrino della penna rossa? No, assolutamente. Però se pensa mi questo, piace sì. Quando sento in televisione e recentemente anche un parlamentare che dice il tale è stato sparato, mio figlio è stato imparato. Secondo me, dalla scuola che ho fatto 40 anni fa, non è così da parlare. Sì, questo è un po' pesantino, devo dire. Mio figlio è ma stato imparato. Ma anche parlamentari l'hanno detto. Sì, ma i parlamentari hanno origini popolari, quindi che devo farle? Vorrei vedere il tasso di istruzione universitaria dei nostri parlamentari rispetto alle prime legislature molto inferiore, quindi questo però è un altro problema, non è che all'università si insegna a parlare bene la lingua o si insegni la correttezza nell'esprimersi linguisticamente. Andrea De Benedetti, su queste ultime conclusioni delle ultime due, devo dire abbastanza stanche nelle loro ipotesi, nelle loro della penna rossa. Ma sì. Io in effetti questo essi dicano, essi dormano toscano non l'avevo mai sentita, quindi mi rimetto a quello che afferma la signora. Se effettivamente i toscani hanno questo uso, non lo trovo elegantissimo, insomma. Poi, io non l'ho mai sentito, sono di padre pisano. Io nemmeno l'ho mai sentito. Però, come dire, se lo dicono solo i toscani probabilmente sarà destinato a soccombere, non credo che prevarrà. Se poi prevarrà ci rassegneremo tutti, succederà fra 200 anni quando non ci saremo più. Per quanto riguarda quello che diceva l'ultimo signore che è intervenuto, io pensavo, a me veniva in mente Luciana Lizzetto, il suo famoso scendo il cane che lo piscio, scusate sì. La volgarità, sì, ma insomma questo uso che credo sia diffuso soprattutto nelle regioni meridionali per influenza spagnola di transitivizzare dei verbi che non sono transitivi. In spagnolo è corretto, si dice, uno può dire bajar el perro, cioè far scendere il cane, ma letteralmente sarebbe scendere il quindi cane. Quindi prendiamolo come un ispanismo residuo nella nostra lingua, date le molte frequentazioni. Grazie Andrea Benedetti, vorrebbe pure ringraziare Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni e vi detti l'appuntamento a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.